Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Imballaggi, filiera del packaging, scelte di consumo e stili di vita. Quanto la sostenibilità è diventata protagonista? È quello che cercheremo di capire oggi nell'approfondimento della settimana. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parleremo poi di fast food e trasformazioni per il focus sui trend di neuromarketing e consumi, quando il cervello fa tendenza. Ma iniziamo come sempre dalle notizie e curiosità della settimana. GR Consumatori. Dagli abiti da sposa con spighe di grano ai vestiti di foglie di cavolo fino ai corpetti di legumi e ai gioielli fatti con fili di zucca, pane e fichi secchi. Sono le produzioni artistiche della Galleria sulla Campagna Creativa, messe in mostra da Coldiretti al Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione. Savile Row, la via dei sarti di Londra, tempio della moda britannica, è stata trasformata per un giorno in zona di pascolo. Erba morbida al posto dell'asfalto, recinti in legno, cani pastori a fare la guardia a una sessantina di pecore. L'evento, parte della campagna Campaign for Wool, ha ricevuto il patrocinio del Principe Carlo. Nuove eco-etichette in arrivo per gli elettrodomestici da fine 2011, con una new entry fra i prodotti che devono tenere conto dei consumi di energia, i televisori. È quanto prevede una proposta della Commissione europea che mira a tagliare la bolletta dei consumatori europei. L'Istituto d'Arte Applicata e Design di Torino lancia il primo corso italiano di diploma accademico in design della mobilità sostenibile e dei mezzi di trasporto. Fulcro del corso, equivalente alla laurea triennale, lo studio dei sistemi e delle soluzioni per migliorare la mobilità nella società contemporanea, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. D-Squared e Yux insieme a fin di bene per cagnolini modaioli. A metà novembre la boutique virtuale lancerà una collezione in edizione limitata composta da collari e guinzagli firmati dai celebri gemelli stilisti Dean e Dan Caten. L'intero ricavato sarà devoluto a Much Love Animal Rescue, organizzazione no profit che si occupa di trovare case sicure per animali abbandonati e maltrattati. La borsa della spesa. Vediamo il problema più realisticamente. La gioventù va considerata per quella che è. Ma caro Renato, quello che dici non significa proprio un bel niente. Benedetti figlioli, la vita è complicata a tutte le età. Questo è vero. Sì, d'accordo anche Claudia. Io sono del parere che i giovani vanno visti nella loro totalità. In casa vostra non vi comportereste mai così, vero? E allora perché quando andate nei prati o nei boschi vi comportate così? Ma i boschi e i prati sono casa vostra, lo capite o no? Il verde è tuo, difendilo. Una cena in casa tra amici che buttano cartacce, avanzi di cibo e sigarette sul pavimento. Era il 1972 e questa campagna di pubblicità Progresso fu la prima campagna sociale in difesa dell'ambiente. Eravamo agli albori della sensibilizzazione civica per la salvaguardia dell'ambiente e il tono acceso e intimidatorio lo testimonia. Oggi le campagne sullo stesso tema hanno ovviamente cifre stilistiche diverse, ma non è questo l'aspetto che vogliamo evidenziare. Vogliamo invece riflettere su come le istanze ambientaliste siano ormai entrate a pieno titolo nelle scelte strategiche delle aziende, non solo a livello di comunicazione, ma anche per quanto riguarda il ciclo produttivo. Se ne parlerà il prossimo 21 ottobre a Milano, proprio qui nella sede del Sole 24 Ore, al convegno Sostenibilità e Prevenzione, Packaging Impresa Società, organizzato dal Sole 24 Ore Markup in collaborazione con Conai. Nelle imprese l'attenzione al riciclo o al riutilizzo degli imballaggi ormai è molto diffusa, ci dice Piero Perron, presidente del Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi. Conai invita le imprese che aderiscono, che sono 1.400.000, a attuare la prevenzione nel senso più ampio. Devono evidentemente pensare al riutilizzo, al risparmio di materia prima, all'utilizzo di materiale riciclato, all'ottimizzazione della logistica, alla facilitazione poi delle attività di riciclo quando l'imballaggio diventa appunto rifiuto, la semplificazione anche del sistema imballo, magari integrando più funzioni, e anche tutto quello che nei processi di produzione, di ricerca, come innovazione tecnologica, può giovare appunto alla prevenzione. Il CONAI, 2 anni e mezzo fa, quando assunsi la presidenza, riciclava e in piccola parte anche recuperava 2 imballaggi su 3, cioè eravamo circa a un 66%. Ormai nel 2010 sicuramente supereremo il fatto di recuperare e riciclare 3 imballaggi su 4. Packaging, ma non solo, l'attenzione ora è su tutta la filiera, sottolinea Luca Ruini, responsabile sicurezza, ambiente ed energia del gruppo Barilla. In questi ultimi anni ci stiamo spostando più che lavorare su tutta l'attività diretta, cioè la gestione degli stabilimenti, il miglioramento dell'attività di consumo dell'energia, ci stiamo spostando non tanto a gestire direttamente, ma anche a capire in che maniera possiamo ridurre i nostri impatti ambientali anche lungo tutta la filiera, sia andando verso le materie prime, quindi le materie prime che acquistiamo, ma anche verso il consumatore finale. Recentemente ci stiamo anche più spostando, proprio andando a calcolare ad esempio gli impatti ambientali delle coltivazioni del grano duro, ad esempio noi produciamo pasta, e quindi andare a vedere che in diverse regioni dove viene coltivato il grano duro gli impatti sono in alcuni casi molto differenti: l'Italia è più bassa, la Francia è più bassa, vado in Turchia è più alta, vado in alcuni casi negli Stati Uniti che risulta essere più alta, ad esempio per il consumo di acqua in alcuni casi, e quindi la scelta di acquistare in una zona o un'altra può avere degli impatti differenti. Cambiamo argomento, immaginate di entrare in un McDonald's senza hamburger. Un'assurdità? No, un esperimento che la catena di fast food più famosa al mondo sta testando in Francia. Ce ne parla il direttore di Markup, Luigi Rubinelli. Nella ristorazione veloce sono in corso esperimenti per sfuggire al solito modo di mangiare e soprattutto al solito prezzo. Come molti ascoltatori sanno, IKEA ha un vasto ristorante e un bar che funzionano tutta la giornata. Negli ultimissimi tempi però, a fianco a questi 2 capisaldo della ristorazione, IKEA ha aggiunto un bar dedicato al biologico. I prezzi, così assicura IKEA, sono addirittura più bassi di quelli dei prodotti convenzionali. Il tentativo è di offrire un'opportunità di scelta in più a chi vuole mangiare da IKEA, ma anche di far migrare il cliente verso il bio, un'offerta che è congruente con il posizionamento della grande superficie di arredamento. Qualcosa del genere sta succedendo anche in casa di McDonald's. Da una parte sta sperimentando in Francia un nuovo tipo di self-service, questa volta con un po' di servizio, e dall'altra, per assecondare la voglia di benessere, sta testando un ristorante senza hamburger. È una rivoluzione copernicana, voi capite bene. Entrare nella Mac insalateria di Clay-sous-Bois, vicino a Versailles. In alcuni Mac Café le insalate sono diventate addirittura 28, fino ad arrivare alla frutta. Il costo medio è di circa 7 euro. Non è un addio all'hamburger, tutt'altro, ormai diventato una commodity a poco prezzo, ma la volontà di servire nuovi segmenti che mai e poi mai entrerebbero nel McDonald's classico. Essere e avere. Una strada si biforca nel deserto. Lexus. La strada su cui viaggia John Anderton è quella meno percorsa. Assicura che resti stabile a Lexus. Non una perdere storia queste che non potrai mai dimenticare. Ehi, John Anderton, scappa via da qui. John Anderton, avresti proprio bisogno di una Guinness adesso. Ogni giorno che passerai con noi sarà un giorno in più in paradiso. Ti serve una vacanza? Buenas Vieni ad ascolto. Stacca la spina, John Anderton. Dimentica i tuoi guai. L'avete riconosciuta? Questa è la scena di Minority Report, celebre film di fantascienza del 2002, in cui il protagonista Tom Cruise passa davanti a cartelloni pubblicitari intelligenti, cartelloni cioè che propongono prodotti mirati a seconda di chi si trovano davanti. Una visione futuristica della pubblicità che è diventata realtà proprio in questi giorni in alcuni centri commerciali del Giappone, dove la NEC sta sperimentando cartelloni simili, in grado cioè di riconoscere sesso, età ed etnia dei passanti. È lo scenario che abbiamo scelto per introdurre il tema del focus sui trend di questa puntata, neuromarketing e consumi. Accanto a me, come sempre, c'è Patrizia Martello di Memetic Lab, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Branca di punta della neuroeconomia, il neuromarketing consiste nell'applicazione della neuroscienza al marketing con lo scopo di studiare i processi decisionali d'acquisto. Strettamente legato all'utilizzo di tecniche di visualizzazione dell'attività cerebrale e di tracciamento dello sguardo, il cosiddetto eye tracking, il neuromarketing studia in pratica gli stimoli del cervello a fini pubblicitari. Non è fantascienza, come abbiamo appena sentito, è una realtà controversa, ma una realtà che va consolidandosi nel mondo dei consumi. Patrizia. Sentite questa storia. Un campione di fumatori viene sottoposto a un test neurologico con risonanza magnetica per capire perché, conoscendo i pericoli per la salute, i soggetti continuino a fumare. Nelle interviste, il campione alla domanda «Ti colpiscono i messaggi informativi sui pacchetti di sigarette?» risponde «Sì», dichiarando quindi di essere influenzato dalle campagne antifumo che, invece, di fatto, hanno un potere dissuasivo dimostrato bassissimo. Il test ha fornito la spiegazione all'ininfluenza di questi messaggi sulla voglia di fumare, dimostrando come questi messaggi stimolino il nucleus accumbens, cioè un'area del cervello detta anche centro del desiderio e dell'autogratificazione. Quindi non solo emerge che le campagne sono inefficaci e non distolgono dal fumo, ma con effetto controintuitivo si scopre che incoraggiano chi fuma ad accendersi una sigaretta proprio nel momento in cui viene letto l'ammonimento informativo del tipo il fumo uccide e simili. Con grande chiarezza, a mio parere, questo caso, raccontato nel libro Biology, si pronuncia come biologia ma è scritto con la U del verbo comprare ed è traducibile con acquistologia, la scienza degli acquisti, ci fa capire la correlazione tra attività cerebrale e comportamenti e decisioni d'acquisto, che sono guidati non dalla razionalità ma da emozioni, desideri e pensieri subconsci. La novità non è tanto questa, cioè l'irrazionalità dell'homo economicus ormai acclarata, quanto il fatto che si possa trovarne traccia fisica, ci siano cioè le prove a livello neurobiologico nel cervello. Traccia fisica che, come abbiamo capito, è più attendibile di quel che diciamo. Il neuromarketing fa proprio questo, usa il brain scanning, cioè la scansione cerebrale, per leggere direttamente nel nostro cervello cosa ci colpisce e perché. In altre parole, e un po' banalizzando, cerca di capire scientificamente cosa venderci. Vediamo come avviene la scansione cerebrale e cosa si vede. Le tecnologie usate sono soprattutto due, la risonanza magnetica e l'elettroencefalogramma in genere combinato con l'eye tracking, che già tu citavi, e i soggetti sono seduti davanti a uno schermo o in mobilità con occhialini e telecamera incorporata. Che cosa si vede nelle immagini rilevate? Si vedono delle zone diversamente colorate del nostro cervello che corrispondono alle aree più o meno irrorate, cioè con più flusso di sangue. E questo è un indicatore di attività cerebrale più intensa. Allora, pensate di essere un'azienda che vuole sapere quanto impatta un suo prodotto, un suo packaging o un suo spot televisivo o il logo per un suo nuovo marchio, il layout di un negozio, la forma di un'automobile, un progetto di architettura, eccetera, eccetera. Ma non solo, volete anche sapere quanto è memorabile, cioè quanto viene trattenuto nella memoria e quanto è coinvolgente sul piano emotivo. E ancora, quanto questo influenza le decisioni d'acquisto potenziali. Bene, le domande sono epocali, sono quelle di tutti, e il neuromarketing riesce a fornire risposte per ora convincenti, configurandosi così come un nuovo strumento da aggiungere, come si dice, alla scatola degli attrezzi di ricercatori e consulenti di marketing, accanto alle interviste e all'osservazione, per l'attività di consumer understanding, cioè la comprensione del consumatore. E c'è un altro film nelle sale proprio in questi giorni che parla di cervello, sogni e subconscio. Regista Christopher Nolan, protagonista Leonardo DiCaprio, lo avrete capito, è Inception. Qual è il parassita più resistente? Un'idea. Una singola idea della mente umana può costruire città. Un'idea può trasformare il mondo e riscrivere tutte le regole. Ed è per questo che devo rubarla. C'è una cosa che deve sapere. Sono esperto di un tipo di sicurezza molto specifico. La sicurezza del subconscio. Noi creiamo il mondo del sogno. Portiamo il soggetto dentro quel sogno e lui lo riempie con i suoi segreti. Voi vi infiltrate e li rubate. Beh, non è strettamente legale. Si chiama Inception. Innesto. Sono pronto. Patrizia, si parla anche di neurocinema, non tanto per indicare film come Inception, quanto invece per capire quali sono gli elementi che stimolano maggiormente gli spettatori, quali cioè sono in grado di decretare il successo o meno di un film in termini di botteghino. Sì, farei una piccola chiosa su Inception proprio perché ci aiuta a spiegare un punto controverso e complesso, oltre che critico, quando parliamo di neuromarketing. Nolan riprende incubi e sogni legati al potere, alla manipolazione della mente e del cervello umano. Lo fa a 15 anni di distanza dai grandi miti, i primi grandi miti del cyberpunk. Va precisato però che il neuromarketing non ha a che fare con condizionamenti delle elementi altrui, cioè non può essere usato per indurre desideri che non si hanno, ma solo per rilevare i desideri e le preferenze che il consumatore ha davvero e che nelle interviste non dice, non sa mettere a fuoco, non riesce a tradurre in parole. Però una certa resistenza culturale, soprattutto in Europa, al suo uso c'è e ha a che fare proprio con i timori di questa natura. Anche solo il prefisso neuro o diciture come scansioni cerebrali attivano orwelliane inquietudini, perché pensiamo che qualcuno ci possa guardare nel cervello e carpirne i segreti per chissà quali usi. Però rimaniamo nel campo interessantissimo e ricco delle applicazioni del neuromarketing usato in senso proprio ai consumi. Nel mondo del cinema e della pubblicità vengono usati test di due tipi: di gradimento, cioè l'uso di questa tecnica di indagine per rilevare se piace e quanto piace un film o uno spot, e sul fronte creativo l'uso delle scansioni cerebrali per scegliere i dettagli visivi più efficaci in termini di impatto emozionale e cognitivo sui potenziali spettatori. È il caso di trailer, per esempio, di Pirati dei Caraibi o Bastardi senza Gloria, che sono stati testati e montati proprio dopo aver selezionato le scene a maggiore impatto, cioè quelle con grandi picchi d'attenzione. Poi abbiamo un primo caso di utilizzo del neuromarketing nel settore editoriale. Neurofocus, una delle società americane leader del settore, ha testato tre diverse prove di copertina del numero dello scorso agosto della rivista New Scientist. Bene, il risultato è stato l'aumento delle copie vendute del 12% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Non sono solo gli stimoli visivi ad essere testati e testabili, anche quelli sonori e olfattivi sono stati e sono oggetto di ricerche di neuromarketing, e ogni volta i risultati molto interessanti hanno confermato, per la gioia di chi già usa il sensory branding, come fragranze e suono siano di gran lunga più potenti di qualsiasi marchio o logo guardati da soli, per esempio. Quindi la sopravvalutata vista è di fatto meno potente di olfatto e udito. Non a caso anche in campo politico, soprattutto in America, dove il neuromarketing è già maturo, ci sono case stories importanti su suono e udito, un esempio su tutti i discorsi di Obama che durante la campagna elettorale sono stati testati in alcune parti decisive con la risonanza magnetica. Naturalmente sarà il mondo delle merci, dei prodotti e dei servizi quotidiani quello che sarà maggiormente rivoluzionato dal neuromarketing, staremo a vedere. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Boston, Stati Uniti, su neuromarketing e dintorni? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Alessia. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, proprio in questi giorni sugli scaffali dei supermercati americani debutterà il nuovo packaging della più pop delle zuppe in scatola. La Campbell, quella per intenderci del barattolo reso un'icona da Andy Warhol, ha infatti deciso dopo anni di rinnovare la sua veste grafica affidandosi proprio alle tecniche di ricerca del neuromarketing. Per 2 anni, infatti, un istituto specializzato appunto di Boston ha monitorato un campione di 40 consumatori in casa e al supermercato, tracciandone e studiandone i micro cambiamenti nella texture della pelle, i battiti cardiaci e tutta una serie di parametri biometrici che, opportunamente incrociati, ne descrivessero la risposta inconscia al prodotto, quella, cioè, come diceva prima Patrizia, che spesso le stesse persone non sanno definire in una semplice intervista. Ora, se la Campbell venderà più zuppe, lo vedremo. Fatto sta che la ricerca ha portato ai più grandi cambiamenti mai fatti dallo storico marchio. Il logo, innanzitutto, è stato leggermente modificato, nel senso che è stato spostato dall'alto in basso dell'etichetta. Paradossalmente, attirava troppo l'attenzione, rendendo le zuppe tra loro indistinte. Il tradizionale piatto è stato sostituito da una più moderna ciotola bianca, il cucchiaio è scomparso, pare che generasse una risposta emozionale molto bassa, e ora dall'immagine della zuppa si leva uno sbuffo di fumo, perché l'apparenza della zuppa calda rendeva subito le persone emotivamente coinvolte. E infine, un codice colore posizionato nella parte alta renderà più facile la scelta dei vari gusti. Grazie Alessia. Patrizia, c'è chi parla però di invasione della privacy, addirittura di manipolazione del consumatore. Gli stessi principi del resto applicati alla comunicazione elettorale danno luogo alla neuropolitica e qui il concetto in qualche modo si rafforza. Dunque, il neuromarketing è una scienza giovane e limitata alla nostra conoscenza ancora incompleta del funzionamento del cervello. Le scansioni cerebrali possono far vedere molto, ma non tutto. Per esempio, non possono rilevare tutte le variabili culturali intervenienti nelle scelte individuali. Però, rimanendo nel mondo dei consumi e uscendo dal dibattito accademico-scientifico, il neuromarketing sicuramente potrà aiutare le aziende ad essere meno inadeguate nel prevedere come i consumatori risponderanno ai loro prodotti. Ricordiamo che l'80% dei nuovi prodotti fallisce nei primi 3 mesi, dalle bibite analcoliche ai tovagliolini di carta, alle barrette di cioccolato, agli asciugacapelli. Se questa non è un'opportunità per incrementare le vendite... Essere avere @radio24.it, scriveteci, aspettiamo le vostre idee e i vostri suggerimenti. Se vi siete persi qualcosa, cliccate sul nostro sito radio24.it, dove potrete riascoltare e scaricare questa, come tutte le altre puntate di Essere avere. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.